inutile negarlo. Tanto più nasconderlo. Come si suol dire, sono più unico che raro. Diciamolo subito. Non è né un merito né un demerito. Con certe caratteristiche si nasce, e ciò non è motivo d'orgoglio né d'umiliazione. Anzi, per quanto mi risulta, essere unici è più una condanna che un vantaggio. Tutti desideriamo essere stimati, onorati e apprezzati. Tutti abbiamo un disperato bisogno di sentirci integrati nella società nella quale viviamo. Non piace a nessuno essere additato, soprattutto se questo gesto è motivo di umiliazione. Proprio per questo, tutti seguiamo la moda. E usiamo per lo più gli oggetti che usano tutti, ci comportiamo come la maggioranza, parliamo con la cadenza del luogo per essere accettati e non derisi. In effetti, per fare un esempio, quando una famiglia nata e vissuta in Sicilia si trasferisce in Veneto, la prima cosa che fa è cercare di avere un linguaggio e accento simile a quello degli abitanti del posto. Il bisogno d'essere come gli altri, a volte, è più forte di tante altre necessità. Essere unici, essere diversi, non è né uno stato al quale ambire né una caratteristica attraente e amabile. Proprio per questo posso dire di essere mio, malgrado, unico. Non che ne sia stato sempre cosciente. Sono gli altri che hanno messo, e mettono, in evidenza le mie caratteristiche. E come dire che io sono basso? Se tutti fossero alti come me, non sarei basso. Non prendo coscienza della mia bassezza, se non relazionandomi con chi sia più alto di me. Se tutti balbettano, non so che esiste un altro modo di parlare, ma confrontandomi con chi parla speditamente, allora comprendo il mio problema di balbuzie. Questi sono esempi al negativo. Esistono però anche verità al positivo. Se tutti zoppicano, non zoppicando mi rendo conto d'essere unico. Ma naturalmente non posso rimediare, essendo nato sano. Se tutti sono calvi ed io ho capelli in abbondanza, non è colpa mia avere dei bei capelli. In questi due ultimi casi, continuo ad essere unico, senza però dispiacermene. Sono felice di camminare bene e di avere dei bei capelli. Posso dispiacermene in parte, perché il bisogno di conformarsi agli altri è molto forte ed abita nella mia natura. Ma dopo aver superato il primo impatto, mi rallegro della mia diversità. Gioia e dispiacere si fondono. Alla fine, però, la gioia prevale sul mio risultare sgradito, sull'essere diverso. Quindi, si può essere unici sia al positivo sia al negativo. Io mi ritengo unico al positivo e ne spiego il perché. Avendo conosciuto l'Evangelo all'età di 21 anni e, avendolo creduto, la mia vita ha conosciuto un'impennata di gioia. Fino a quel giorno avevo vissuto con una sensazione interiore di vuoto, mortale, a causa del quale ogni cosa offertami dalla vita appariva inappagante. Brancolavo, come dice la scrittura, nel buio più totale, su di un sentiero sdrucciolevole. Niente soddisfaceva a un'anima assetata d'amore come la mia. La sete d'amore scavava un vuoto sempre più profondo attorno in me. Gemevo del continuo come una colomba. In questa buia situazione avevo però anche tre stimoli non indifferenti. Amavo la sapienza, ero sempre sincero, avevo un cuore riconoscente. Per quello che mi era possibile, leggevo ogni cosa per comprendere Dio e la vita, ero sempre schietto e genuino dicendo le cose come le avevo nel cuore, Salmo 15, mentre la mia riconoscenza verso un essere supremo che non conoscevo andava alle stelle, e questo soprattutto quando vedevo una persona handicappata o gravemente malata, constatando quanto grande fosse stata la sua bontà nei miei confronti. Ora sono un figlio di Dio da più di 40 anni, ho vissuto sempre a servizio dei miei fratelli, ho svolto compiti quali diacono, conduttore, cura pastorale, evangelizzazione, mi sono occupato di giovani e anziani, ho scritto articoli e libri, svolgo un piccolo compito per radio e un modesto servizio tramite posta elettronica, ho presentato e porto l'Evangelo nelle case, nelle comunità, nelle piazze, in convegni e ho avuto la gioia di condurre anime a Cristo. Ma in tutte queste situazioni, un dolore, un interrogativo attanaglia tuttora il mio essere, Perché i figli di Dio hanno tanti problemi? Perché essi non realizzano quella vita abbondante della quale ha parlato Gesù? Perché? Perché? Partendo come sempre dal presupposto che non vi sia in loro il desiderio di essere malvagi, che anche loro desiderano come me una vita pienamente appagante e felice in Cristo, ho concluso che l'errore di fondo consiste nel loro atteggiamento nei confronti della vita. Una conclusione certamente non sensazionale, perché anche i filosofi prima di Cristo si resero conto che a turbare non sono le circostanze ma la nostra opinione in relazione ad esse. Perciò, riflettendo attentamente, sono arrivato alla conclusione che nei credenti mancano le tre caratteristiche che in qualche modo mi hanno reso quello che sono: il desiderio di conoscere, la sincerità a qualsiasi costo e la riconoscenza. Il desiderio di conoscere. È normale che ogni creatura fatta d'immagine di Dio abbia il desiderio di... Appena bambino un essere umano è attento ad imparare, pone domande ed interrogativi. Non è tanto questo il tipo di conoscenza alla quale mi riferisco. Ci sono persone istruite come non mai, ma la cui gran conoscenza è una sapienza morta, meccanica e di poca utilità nella vita quotidiana. Conoscere, ad esempio, tutti i nomi dei fiumi e dei monti del mondo, conoscere ogni giocatore di calcio, conoscere ogni attore del cinema, può essere utile, ma lascia il tempo che trova nell'affrontare il vivo problema della quotidianità. Certo, produce una certa soddisfazione far notare di sapere ciò che pochi conoscono, ma alla fine la vita è composta di altre realtà e necessita altra sapienza per vivere bene, per non soffrire e comportarsi correttamente con il prossimo. Ecco perché leggiamo nella parola di Dio: la sapienza è la cosa più importante, perciò acquista la sapienza. A costo di tutto ciò che possiedi, acquista l'intelligenza. Proverbi 4, 7. Se la sapienza meno, quella alla quale stiamo accennando meno, è la cosa più importante e necessaria, allora la maggioranza delle persone ha fallito nella vita. Per la mia valutazione, un quarto dell'umanità corre dietro alla religione, un altro quarto, rappresentato dai ricchi, dai benestanti, dagli attori, dagli sportivi, dagli uomini della politica, corre dietro al denaro e al successo. Un altro quarto è composta da bambini e vecchi, incapaci di apprendere la vera sapienza e da persone che si interessano a cose vane e da passatempi. Solo un quarto è interessata a cose serie. Sembra un'opinione alquanto azzardata, ma se così non fosse, il mondo andrebbe molto meglio, i rapporti sociali non languirebbero di tutte quelle brutture alle quali siamo abituati ad assistere. L'invito della parola di Dio dunque è più che mai opportuno. Il cuore dell'uomo prudente acquista conoscenza, anche l'orecchio dei saggi cerca la conoscenza. Proverbi 18 e 15. Proverbi 19, 8. L'ultimo proverbio è significativo. Ama se stesso, chi fa di tutto per acquisire un certo discernimento, e il mio modo di relazionarmi con il prossimo è direttamente proporzionato all'amore che ho per me stesso e quindi alla conoscenza che acquisisco. Io non lo sapevo, ma il mio smoderato desiderio di conoscere la parola di Dio, cercando di capire cosa essa effettivamente vuole insegnare, quale effettivamente sia la volontà di Dio, mi ha reso sano mentalmente, moralmente, fisicamente, portandomi a raggiungere il giusto atteggiamento verso il prossimo. La parola di Dio per me non è mai stata una conoscenza sterile e meccanica, come conoscere nomi, città o versetti della Bibbia, e neppure un discorso religioso disimpegnato. Essa ha avuto, ed ha, tuttora, il potere di condizionare il mio modo di ragionare e di vivere. Leggevo, in una vignetta umoristica, la seguente battuta, rivolta da una donna ad un'altra: mio marito ha soli due difetti. Tutto ciò che dice e tutto ciò che fa. Ho l'impressione che molti, fra coloro che si dichiarano figli di Dio, abbiano solo questi due difetti. La parola di Dio non condiziona il loro modo di parlare né di comportarsi. Chi acquista senno ama la sua stessa vita e chi conserva la prudenza troverà il bene. La sincerità a qualsiasi costo. La sincerità, o dire la verità, dovrebbe essere una caratteristica normale d'ogni essere umano. Purtroppo così non è. Sono molti coloro che per interesse materiale o morale mentono e ingannano. Però, grazie siano rese a Dio, non tutti sono così. Vi sono persone sincere, che dicono la verità. Dicono la verità ma senza affermarla a qualsiasi costo. Più di una volta mi sono trovato mancante, leggendo la parola di Dio e la prima reazione istintiva era ignorare o attenuare l'opinione di Dio nei miei confronti. Ero mancante, sì, però ben presto mi resi conto che la cosa più saggia era accettare completamente e senza attenuanti la sentenza di Dio nei miei riguardi. Tanto era difficile l'accettazione quanto facile e bella era la liberazione. Mi liberavo di castelli in aria, di palloni gonfiati ai quali stavo aggrappato, mi cadevano i denti da latte. Fin qui il mio rapporto con Dio era però molto intimo, né conosciuto né giudicato. I nodi però venivano al pettine quando si trattava di relazionarmi con gli altri. Dire la verità non è facile, soprattutto quando questa ha un costo. Più alto è il costo, più difficile è dire la verità. Bastava una mezza bugia, una parola accomodante, e si evitavano scontri frontali. Si può essere sinceri fino in fondo una volta, due volte, tre volte, ma dopo occorre prendere una posizione. Fu così che decisi con fermezza di dire sempre la verità. Dopo aver messo sui piatti della bilancia i pro e i contro, mi sono reso conto che alla fine era meglio soffrire perdendo apparentemente al presente piuttosto che pagarne il prezzo in futuro. Ho capito che l'importante nella vita non è stare bene subito, ma non soffrire domani. Cosa, questa, non afferrata da tanti figli di Dio. Essi guardano l'uovo di oggi, non sapendo di perdere la gallina domani. I frutti vanno raccolti nella loro stagione. Io ho sempre vissuto con lo sguardo al futuro. Ho sempre valutato l'azione del presente in relazione al domani. E questo mi ha evitato molte pene e molti dolori inutili. Capii allora ciò che Paolo scrisse ai Filippesi: ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze, che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Tu sai quali persecuzioni ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Infatti, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. Non vi è dubbio che Paolo abbia sofferto come predicatore del Vangelo, ma egli ha pure sofferto perché era pio e diceva la verità. Non occorre andare nei luoghi sperduti della terra per soffrire causa l'Evangelo. È sufficiente dire sempre la verità per intero per ricevere persecuzioni e opposizioni da chi ama una verità accomodante. Ma è questione di scelta. Ci sono sofferenze inutili e utili. Io ho scelto quelle di Dio, cioè le utili. La riconoscenza. Dovessi scegliere un solo versetto della parola di Dio adatto a rendere felici le persone, a renderle gradite a Dio e a garantire una convivenza ottimale e riuscita, sceglierei non un verso ma solo due parole. Esti Antico Testamento e riconosce Nuovo Testamento, i Colossesi 3:15. Sì. In quest'ordine era chiuso il segreto di una vita abbondante e fruttuosa appagata. Fin dalla mia fanciullezza ho avuto un cuore riconoscente verso Dio, verso tutti gli uomini e verso la vita. Tutto era, ed è ancora, motivo di riconoscenza. Sono riconoscente perché esisto e sono cosciente di esistere. Ho un'immensa gratitudine verso tutti coloro che mi amano e si interessano di me. Sono riconoscente a Dio per tutto ciò che mi circonda. La luce, i suoni, i profumi, il vento che accarezza la mia pelle, per il caldo e il freddo, per le passeggiate nei sentieri dei boschi, per l'immensità del mare e le barche che accarezzano l'acqua, per la presenza femminile, per i bambini e i vecchi, per gli animali con i loro cuccioli, per le coperte calde d'inverno, per la famiglia e i familiari, per l'aria fresca del mattino, per l'ombra d'estate, per la pioggia, per l'acqua quando hai sete, per la sessualità. Sono grato per gli uomini che lavorano, perché si possa vivere bene in questo mondo, per i medici e professori, per coloro che sono morti in guerra, perché al presente si possa vivere in pace, perché posso leggere e studiare, perché posso comunicare. Sì, tutto è ragione di riconoscenza. Questo è stato sempre il mio atteggiamento verso la vita. Per questo ho sempre goduto di ogni cosa. Solo chi è riconoscente può godere veramente tutto ciò che lo circonda. Spesso mi sento spinto di esprimere la gioia della mia riconoscenza con un abbraccio, un bacio, ma non mi è possibile in una cultura dove certi gesti sono interpretati con secondi fini. La mia sofferenza sta anche nel dover soffocare questo tipo di riconoscenza. Questo mio atteggiamento di gratitudine condiziona pure la comprensione della parola di Dio. Per me, la lettura della parola di Dio è ragione di gioia, penetra e viene assimilata nel mio spirito più del cibo. Mi disseta più dell'acqua, apprendo da essa verità e insegnamenti che stimolano sempre più la mia riconoscenza. Mentre molti figli di Dio si macerano di sensi di colpa, vedono la parola di Dio un libro pieno di divieti, un libro che condanna una vita felice. Per quanto mi riguarda, essa mi aiuta a vivere bene e ad essere felice. Mi alzo al mattino con un cuore riconoscente. Ho tutto il giorno un cuore riconoscente. Mi vado a riposare con un cuore riconoscente. Non comprendo coloro che tutto il giorno si sentono colpevoli, che camminano con il terrore come camminassero sui vetri, che tutto è peccato e contrario. Mi sembra di comprendere che usano la parola di Dio solo per trovarvi ciò che li colpevolizza e accusi il prossimo. Certo, tutti sbagliamo, non vi è nessun giusto, neppure uno. Ma quando ci si alza con un cuore riconoscente, quando ci si relaziona con il prossimo con un cuore grato, quando si ha il desiderio di fare del bene al prossimo, non vedo perché io debba macerarmi con dei sensi di colpa. Se sbaglio, confesso a Dio la mia mancanza. Se questa è compiuta verso il prossimo, chiedo scusa e, se è possibile, rimedio. Ma in seguito continuo il mio cammino con un cuore riconoscente. Non vi può essere peccato o errore, passato e futuro, che possa togliere la mia riconoscenza verso Dio o il prossimo. Se questo avviene, sono colpevole di autocommiserarmi, di guardare a ciò che ho fatto e sono, anziché a ciò che Gesù Cristo mi ha dato e ha fatto per me. Forse mancare di riconoscenza è ciò che rattrista di più Dio e offende Gesù Cristo più di ogni altro peccato. Nella parola di Dio leggiamo che a Salomone Eliseo fu fatta una proposta che non ha eguali: chiedere qualsiasi cosa. Salomone chiese a Dio sapienza e gli fu concessa. Senza saperlo, quando ancora non conoscevo Gesù Cristo, chiesi anch'io sopra ad ogni cosa la sapienza. E devo dire che in una certa misura mi è stata accordata. Nel libro di Due Re leggiamo che Elia propone ad Eliseo: chiedi ciò che vuoi che io faccia per te, prima che sia portato via da te. Eliseo rispose: ti prego, fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. Eliseo aveva l'ambizione di realizzare una vita particolarmente ripiena dello Spirito Santo. Ambizione questa di tanti figli di Dio. Oggi, se Dio mi dicesse, prima di lasciare questa terra, di chiedergli qualsiasi cosa, io gli chiederei qualcosa di simile a ciò che Mosè chiese all'Eterno, numeri 11 e 29. Cioè che tutti coloro che temono Dio realizzino le tre caratteristiche: il desiderio di conoscere, la sincerità ad ogni costo e la riconoscenza. Non concepisco una vita cristiana migliore. Sono troppo felice per tenere per me un simile dono. Con un simile atteggiamento tutto sorride, non si tira, come si dice, avanti, ma si corre verso una meta ben precisa e sicura. Questo non significa che ogni situazione sia gradevole, piacevole, perché anche Gesù è stato l'uomo di dolori, esperto nella sofferenza. Isaia 53:3. Realizzando queste virtù, non si avranno nemici. È vero, vi saranno avversari. Lo scontro del bene con il male è sempre inevitabile. Una cosa però è avere avversari, un'altra avere nemici. L'avere un nemico chiama in causa anche il tuo comportamento e i tuoi sentimenti. Avere un avversario invece è un problema che riguarda solo il tuo prossimo. Chi ha un cuore ripieno di gratitudine trasforma in luogo di sorgenti la valle della sofferenza che sta attraversando, Salmo 84:6. Ecco perché il salmista aveva detto precedentemente: «Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo. Beati quelli che ripongono la loro forza in te e che hanno in cuore le tue vie». La riconoscenza, la gratitudine porta a lodare, e lodare è l'atteggiamento ininterrotto dei santi in cielo. La riconoscenza porta il clima del cielo in questa terra piena di lacrime. Queste tre caratteristiche naturalmente non rendono unico solo me, ma anche chiunque le possegga. Inoltre, tutti a nostra volta siamo unici, non ci è infatti una persona esattamente come l'altra. L'unicità quindi consiste unicamente nelle diverse caratteristiche possedute da ciascun individuo. Infine, è necessario anche ricordare che amare la sapienza, essere sinceri a qualsiasi costo, avere un cuore riconoscente non sono virtù che una volta possedute rimangano automaticamente per sempre, come per esempio avere gli occhi azzurri, una peculiarità fruibile per tutta la vita. Esse devono essere ricercate, coltivate e mantenute, perché come disse Gesù: «Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha», Luca 19:26. Mi risulta quindi che essere unico non può essere considerato un atto di orgoglio. Riflettendo un attimo si capisce che piuttosto è un'umiliazione, perché se gli unici sono rari, ciò significa che la maggioranza delle persone non ha coltivato le virtù che Dio in misure diverse ha messo nell'intimo di ognuno. Sono dunque felice d'essere quello che sono, ma nel mio cuore sono anche addolorato, constatando quanto le persone cerchino sempre di uniformarsi alla massa. Ero alla finestra della casa di mio figlio, che abitava in quel periodo davanti ad una scuola, e osservavo i bambini entrare a scuola come un mucchio di formiche che assalissero un pezzo di pane abbandonato per terra. C'era qualcosa che mi angosciava e non capivo il perché, finché ad un tratto i miei occhi rivelarono il mio disagio. Tutti i bambini, sia maschi sia femmine, avevano i pantaloni e sulle spalle uno zaino che era diverso, solo da pochi colori, non troppi diversi. Non capivo la mia reazione negativa finché compresi che era l'uniformità ad angosciarmi, proprio perché il creato stesso è multiforme. Cristo ci ha creati tutti diversi, non solo nell'aspetto fisico, ma anche in quello caratteriale, e non perché ci giudicassimo a vicenda o pensassimo di essere migliori di altri, ma perché facessimo tesoro di ciò che è l'altro, che tu possa essere quello che Dio vuole a tuo riguardo. Se non vivi per quello che sei, non puoi in nessun modo essere felice. È come se un gatto imparasse ad abbaiare e mangiare degli ossi. Lo potrebbe anche fare, ma non sarà mai pienamente un gatto soddisfatto. Possa tu desiderare d'essere unico. Nonostante gli aspetti negativi, ti garantisco che sarai appagato, ora e per l'eternità. Febbraio 2009, Ellero,